Investire informati. Eh sì, c'è da dare la caccia alle notizie in questo periodo per investire in maniera consapevole, a giudicare da tutto il popolo del piccolo risparmio che ha, come dire, cercato con grande vigore di sottoscrivere le BTP Italia in questi giorni. Speriamo che questo sia un segnale buono, soprattutto dal punto di vista dello stato di salute di chi riesce ancora a risparmiare. Quindi evidentemente una bella fetta di popolazione italiana non ha dovuto fronteggiare la crisi economica nel suo impatto più duro, che secondo me è sempre la perdita del posto di lavoro. Intanto i mercati finanziari, Mauro, allora ti dico che stamattina sono negativi, ma ieri sera lo Standard & Poor's 500, l'indice americano, si è pure portato praticamente ai livelli di febbraio, quindi tra lui e il Nasdaq hanno cancellato questo periodo di crisi. E quindi volevo subito chiedere un commento su questo a Manuel Pozzi, perché ci sembra che l'andamento dei mercati finanziari proprio non voglia rispecchiare esattamente il sottostante economico che registriamo in questo momento, con un PIL in caduta libera ovunque, una disoccupazione che continua a crescere. Oggi peraltro abbiamo il dato di nuovo sui sussidi settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti, settori, interi settori economico-produttivi in ginocchio e la borsa che va dove vuole. Come dobbiamo leggere tutto questo? Allora, i mercati azionari e gli investitori tendono molto spesso ad anticipare gli eventi, ovviamente se hanno un sentore o iniziano un po' a formarsi diciamo, i dati e le notizie. Ecco. Quindi è normale che quando ci sono eventi anche così forti come una recessione senza precedenti come questa, i mercati crollano, come ha fatto in 4 settimane soltanto tra febbraio e inizio marzo. E poi è abbastanza normale che quando iniziano ad arrivare 1, 2, 3, 5, 10 notizie positive, anche se non sufficienti, come sono stati gli interventi delle banche centrali e gli interventi fiscali dei vari governi in tutto il mondo, i mercati iniziano un pochino a tranquillizzarsi. Però è anche vero che siamo arrivati a un momento un po' difficile per gli investitori, perché se l'esperienza, diciamo, suggerisce che quando ci sono crolli molto grossi, come quelli che abbiamo visto a febbraio-marzo del 30% sulle borse mondiali, spesso poi diventano anche occasioni di acquisto. Quando però dopo ci sono mercati come la borsa americana che iniziano le valutazioni non più da momenti di crisi, ma da momenti del tutto normali, cioè valutazioni in linea con periodi normali, e che addirittura ha recuperato il grosso delle perdite per alcuni settori come la tecnologia, in parte la sanità, qualche titolo tecnologico gigante, perché poi sono i titoli, diciamo, le mega cap come Netflix, Amazon, che hanno fatto veramente bene in questo periodo. Uh-huh. Però quando sono saliti così tanto, bisogna chiedersi quanto rischio sia invece di sorpresa negativa a questo punto, proprio perché le valutazioni della borsa americana non sono a buon mercato. Se parliamo del resto del mondo, e quindi di Europa, di Asia, emergenti, sì, lo sono. Quindi, diciamo, sono valutazioni abbastanza basse che tengono conto del fatto che sia un momento straordinario di, certo, crisi economica. Ecco, la borsa americana che tende a guidare, no, per cui in questo momento bisogna essere un po' più coi piedi per terra a nostro avviso e non farsi prendere troppo, diciamo, dalla golosità, ecco. Quindi dall'entusiasmo per questa, esatto, per, come dire, auspicata ripartenza letta dal mercato americano ma non altrove. Due di denari. E non ha lunedì nero, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO. Se anche il caffè fosse rincarato a 1,50 sarebbe tutto normale, perché negli anni 70 ed 80 il caffè espresso è sempre costato come il quotidiano, andavano di pari passo. Quindi in realtà il caffè è rimasto indietro nel prezzo, bisogna che vi svegliate un pochino. Prendendo l'ispirazione da questa. Buongiorno, sì, in qualche caso io l'ho trovato rincarato, però bevendo un paio di caffè al giorno, voglio dire, qualche centesimo in più, cosa vuoi che sia? Se qualche centesimo in più, 20-30 centesimi in più possono salvare un'attività, ben venga. Che solo dei diritti si ha. Cara Deborah, Sì. Carissimo dottor Pozzi, devo fare una precisazione all'ascoltatore che dice il caffè costava come il quotidiano. Sì, ma vendevamo una quantità di quotidiani immensamente superiore e quindi c'era una differente allocazione, per così dire, del prezzo. La quantità, insomma, influiva sulla possibilità di tenere il prezzo più moderato. Questo è il giusto per, come dire, fare un piccolo, piccolissimo editoriale anche da parte mia. Chiedo scusa, hai Deborah. Hai fatto bene. Prego. Hai fatto bene. Riprendiamo allora la nostra conversazione con Manuel Pozzi, temi economico-finanziari da commentare anche in termini di temi di investimento da indicare ai nostri ascoltatori nel caso in questo momento possano avere la serenità e la lucidità, e noi li superiamo per poter anche fare un pensiero su questo. Ci portano naturalmente appunto a ragionare sull'attualità. Peraltro, Pozzi, non so se il tema dell'inflazione in prospettiva potrebbe essere qualcosa che dovrà generare un po' di preoccupazione fra piccoli e grandi investitori, perché sì, adesso la teniamo sotto controllo, le banche centrali agiscono per arginare la volatilità dei mercati, per garantire la stabilità finanziaria. Il mandato della Banca Centrale Europea è quello di garantire la stabilità dei prezzi, ma insomma, se dovessimo continuare a vedere questi piccoli segnali sui quali abbiamo scherzato un po' questa mattina, secondo lei dovrà diventare un tema dal quale proteggere anche il proprio risparmio e il proprio investimento? Allora, non è l'idea che abbiamo noi, ecco. Parlando anche con un po' tutti i gestori basati a Londra, basati in America, in Asia, del nostro team, non è la preoccupazione principale in questo momento. È vero che da un lato nel breve ci sono degli aumenti dei prezzi derivanti proprio dal blocco un po' dell'operatività di tanti settori, e quindi questo fa rincarare alcuni servizi, alcuni beni. Però dall'altro abbiamo il crollo del prezzo delle materie prime, una fame di lavoro tale per cui comunque l'offerta sia di manodopera, che ad esempio anche i prodotti e servizi per chi può operare è importante rispetto alla domanda. Quindi no, non vediamo un problema vero di inflazione, nonostante tutti gli incentivi fiscali e monetari enormi che stanno venendo. Ricordiamoci comunque che quando potremo poi tornare alla normalità, quindi passato un po' il periodo dei prossimi 12-18 mesi. Che si può mettere un pochino più a favore di microfono connetta, non so che dispositivo, eccolo qua, così magari va bene, va bene. Quindi meglio quindi, adesso sì. Anche se nel breve ci sono un po' di movimenti stranieri dei prezzi, appunto qualche fenomeno di rialzi, ma anche tanti ribassi, soprattutto legati alle materie prime, pensando ai prossimi anni e quindi al valore dei propri risparmi, non vediamo un grosso problema di inflazione, perché comunque rimaniamo una popolazione, in Europa in particolare, piuttosto anzianotta, perché la tecnologia sta aiutando molto a snellire i processi produttivi e anche i nostri metodi di acquisto, e quindi calmerà un pochino i prezzi. Semmai i titoli legati all'inflazione, come può essere anche il BTP Italia, possono offrire invece qualche spunto interessante per gli investitori, non per arricchirsi, ma per ottimizzare un po' gli investimenti. Mi spiego meglio. I titoli di inflazione hanno un prezzo che dipende non solo da come si muove l'inflazione, ma anche da quanta inflazione stanno prestando in questo momento. Dottor Pozzi, la stiamo perdendo come voce, nel senso che il segnale diventa via via più debole, quindi... Ok, io sono... Adesso meglio, più grazie. Vicino possibile, non stando fermo. Non si muova, resti immobile, ma può parlare, prego. Va bene, dicevo, quindi i titoli legati all'inflazione stanno prestando un'inflazione molto bassa per i prossimi 10 anni, in alcuni casi anche di più. Il che vuol dire che chi ha intenzione di comprare le obbligazioni con scadenze lunghe forse può far meglio a prendere anche dei titoli legati all'inflazione, proprio perché un po' non si sa mai su quello che può succedere, ma soprattutto stanno pagando poco l'inflazione. È come comprare un'assicurazione contro l'inflazione. Oggi costa poco questa assicurazione. In questo senso è un modo per ottimizzare e diversificare i propri investimenti, anche se non ci sarà una grande inflazione, ecco, ma normale. Deborah, io sono invece più tormentato da quello che a volte ti sento dire, sell in May and go away, perché Ultimamente non l'ho detto tanto, dai. No, no, però ogni tanto me lo dici, io non ho mai capito se è una cosa vera o se adesso col Covid qui cambia tutto, questo tipo di ricorrenze, perché più che altro sono delle ricorrenze statistiche, mi sembra di capire, dottor Pozzi, ma ce lo confermi lei, valgono secondo ancora me quest'anno nell'era hanno scelto del Covid. Il mese di marzo, March in May, go away, March, no, com'è? Allora, diciamo che statisticamente non è così chiaro il fatto che mediamente i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto siano così negativi. Ecco, sono un po' sottotono rispetto alla media degli altri mesi, quello sì. Dire però che generano sempre delle perdite, no, non è vero questo. Però quest'anno è vero che siamo in una situazione di crisi, di incertezza, i mercati hanno già recuperato tanto, per cui diciamo che non è il momento dove riempirsi a capofitto di azionario, ecco. Era il caso di farlo quando c'erano i saldi grossi a marzo. Adesso c'è, come dicevamo all'inizio, da rimanere un pochino più coi piedi per terra, cercare di capire gli investimenti che stiamo facendo, pensando ai prossimi 5 anni, va bene, teniamoli, dove abbiamo un'idea un pochino più così più tattica di investimento, allora magari un po' il sell in May, go away, forse quest'anno vale. Ecco qua. Cara Deborah, noi abbiamo sempre anche il domandone, ma forse abbiamo ancora un minuto per una ulteriore battuta con Manuel Pozzi prima di fermarci poi per il traffico. Vedo che, non so, complessivamente Pozzi, lei ci sta invitando a non essere troppo euforici, anche se i mercati sembrano avere ripreso una tendenza ascendente. Colgo bene che questo è il vostro atteggiamento, prudenza. Sì, allora prudenza relativa, nel senso che comunque di opportunità ce ne sono, perché si creano sempre quando ci sono questi momenti di crisi. Vi faccio un esempio, per esempio, magari avete già parlato anche nelle puntate scorse dei titoli che vengono chiamati falling angels, gli angeli caduti, cioè le aziende che emettono corporate bond, che hanno una buona qualità e quindi anche dei rating, dei giudizi sul merito di credito alti, però in periodi di crisi peggiorano e quindi questi rating, questi giudizi, i voti che gli vengono segnati peggiorano e vanno sotto la sufficienza, diventano high yield o spazzatura, come vengono anche chiamati in gergo. Bene, in questi titoli bisogna capire bene quali sono quelle aziende che hanno dei problemi così seri che diventano insuperabili e quindi andranno verso il default. In questo caso potrebbero essere titoli di aziende che già avevano bilanci piuttosto in bilico e che si trovano i fatturati bloccati per parecchi mesi. Pensate alle società che fanno il car rental, per esempio, o che gestiscono grandi catene di ristoranti. Car rental è noleggio auto. Noleggio delle auto, sì. Sì, scusate, ecco, mi viene in mente. Non si preoccupi, noi siamo qua per questo. E, diciamo che ci sono dei settori che sono oggettivamente più a rischio, così come il settore energetico per le piccole aziende del settore energetico americane, soprattutto, che hanno un rating basso. Però se guardiamo il mercato nel suo complesso, quando ci sono queste aziende che vengono declassate, spesso sono aziende di una qualità abbastanza robusta, magari in settori ciclici, e quindi per questo che hanno dei problemi in queste fasi. Ma poi negli anni successivi, nei 2 o 3 anni successivi, tendono poi a riprendere qualità, riprendere fatturato e riguadagnare anche il merito di credito, guadagnano poi voti. Da questo punto di vista, questi titoli cosiddetti falling angel spesso fanno meglio del mercato dei titoli a yield, proprio perché riescono a rimigliorare. Quindi anche in periodi di crisi, ovviamente comprando quando ci sono i saldi, quindi dopo che sono deprezzati tanto, spesso danno delle grosse opportunità. Bisogna entrare nel merito però di ogni singola azienda, perché quando vedete il prezzo di un titolo che scende da 100, arriva a 50 o 60, in quei casi bisogna capire: è un'azienda che va poi verso lo 0, 10-20, oppure che ritorna invece a 100, magari nel giro di qualche anno, e quindi diventa una grossa opportunità? Lì bisogna entrare nel merito con gli analisti del credito, con gli specialisti, i consulenti magari che sono specializzati in questo, e cercare anche di capire dove sono le opportunità. Quindi ecco, è vero che siamo un po' più prudenti in questa fase, decisamente, però sappiamo che ci sono anche delle cose da guardare con forte attenzione, perché occasioni di questo tipo capitano una volta ogni 5-10 anni. Allora, diciamo che più che prudenti è il caso di essere molto selettivi, e forse è bene che il lavoro lo facciano degli specialisti, come possono essere appunto le grandi case di investimento. Mauro, è tempo dell'interrogazione. Domandone. facilissimo. Rispondete telefonando a 800240024. Il domandone di oggi è: a quanto ammonta il tasso annuo definitivo fissato per il BTP Italia, questo della emissione di cui abbiamo parlato in questi giorni? A quanto ammonta? 800240024. Due di denari. Ripeto il domandone a beneficio di chi si ponesse solo ora all'ascolto. Allora, vogliamo sapere, l'abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, a quanto ammonta il tasso annuo definitivo per la 16ª emissione del BTP Italia? 1,80024 0024. Non fatemi dire di più, sennò poi Deborah viene qui e, nonostante le misure di distanziamento, mi picchia. Torniamo da Manuel Pozzi, invece, direttore investimenti di M&G Investment. Deborah. Volentieri, magari gli facciamo raccontare un po' che tipo di prospettive abbiamo con i mercati emergenti. Allora, io ieri ho fatto Focus Economia, Mauro, e questo ho già messo in agenda come tema da dover affrontare prossimamente. Abbiamo qualche azione di disturbo che sta arrivando dalla Turchia e scopro, ahimè, che molti amici risparmiatori che ci seguono hanno investito in molte obbligazioni di questo paese, che è sempre molto ballerino, soprattutto dal punto di vista politico, invece sta rischiando una nuova crisi valutaria pesante, e ci torneremo. Mi interessa di più, Pozzi, capire quali sono le indicazioni che arriveranno dalla Cina, perché sarà molto importante l'effetto traino che questo continente avrà per tutto il resto del mondo prossimamente. Peraltro è iniziato proprio ieri il plenum del Congresso del Popolo Cinese e da lì verranno fissati target di crescita dell'immediato futuro, ma anche del medio e lungo termine. Cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo ampliare un pochino di più la porzione del nostro portafoglio investito verso quest'area? Sarà quella destinata a proteggere i nostri soldi, paradossalmente, prossimamente, a suo avviso? Beh, diciamo che la Cina è un mercato, dal punto di vista dell'investitore che investe in azionario, in alcuni casi anche in obbligazioni, che sta crescendo a vista d'occhio, perché solo gli ultimi 5 anni hanno visto una crescita esponenziale per quantità di aziende presenti su questi mercati e anche per qualità, che sta migliorando tanto. Quindi sicuramente diventa uno degli mattoncini che si possono utilizzare sempre più facilmente per gli investitori anche, appunto, italiani, ovviamente utilizzando che magari replicano indici o che investono in quei mercati. Dal punto di vista poi un pochino più tattico, venendo un po' al dunque, la Cina è un paese che ha sofferto per prima la crisi del coronavirus, che si sta in parte riprendendo, o quantomeno, diciamo, è una fase 2, fase 3 un po' più avanzata rispetto agli altri paesi. In effetti questo la borsa lo sta contando quest'anno, perché la borsa cinese ha fatto un pochino meglio, ecco. Stando più avanti, bisogna ricordarci che è un mercato dove sta migliorando la qualità e anche la diversificazione, e quindi è un mercato da tenere sempre più presente. Da qui a dire che è il momento di investire in Cina se ne passa un bel po', però, ecco, dal punto di vista nostro, sì, sicuramente è un mercato da avere più presente. Ecco. Poi quello che potrà definire il fatto congresso cinese lo staremo a vedere, e tutti siamo un po' con una grande attenzione, ecco. A dire la verità, purtroppo, tutto quello che viene un po' detto in questo periodo va un po' messo così in secondo piano dalla diatriba Trump-Cina, che continua a perversare e sicuramente non fa dormire sonni sereni né al governo cinese né un po' ai risparmiatori. Dottor Pozzi, devo pregarla ancora di recuperare la posizione precedente, perché sta peggiorando il collegamento. Forse ci sono degli investimenti interessanti nella telefonia, Deborah, mi viene da pensare, perché talvolta abbiamo problemi e notiamo che ci sono margini di miglioramento, per dir così. Volevo chiedere una cosa al dottor Pozzi, se mi consenti, Deborah. Queste banche centrali, che sono molto interventiste, giustamente, ci mancherebbe altro in una fase di pandemia, però addirittura adesso con la Fed che compra ETF, quindi insomma di fatto entra anche nel, come dire, nel mercato azionario obbligazionario, ecco, nel mercato del societario, per dir così. Va bene, va male? Cioè, qual è il giudizio di voi professionisti del settore? È una cosa che finisce poi per alterare il corso delle cose o bene così perché adesso va bene, ci serve anche questo? Ma allora, diciamo che se non fossero intervenute le banche centrali, anche la Fed, coi muscoli come stanno facendo in queste settimane, il rischio sarebbe stato, non dico un nuovo 2008, ma una situazione che andava in quella verso quella direzione lì, ecco. Nel senso, nel 2008 ci fu una crisi completa di tutto il sistema finanziario a partire dalle banche. E le banche centrali non sapevano all'inizio come muoversi in quel contesto. Adesso invece hanno tante esperienze e sono mosse subito per dare liquidità al mercato, per dare fiducia e liquidità. Lo stanno facendo. Il però ovviamente è che per gli investitori i prezzi hanno iniziato a recuperare in tempi un pochino più rapidi, e c'è liquidità un po' migliore. Dall'altro invece il contro potrebbe essere che non ci sia cosa se tante aziende continuano magari a emettere obbligazioni, perché tanto ci sono le banche centrali che comprano e che aiutano, e magari sono aziende che man mano diventano un po' decotte. Da questo punto di vista bisogna stare attenti, perché è ovvio che un mercato che un pochino drogato potrebbe diventarlo, ecco. Però il fatto che utilizzano gli ETF o altri strumenti anche istituzionali non è che cambi un granché. Già prima compravano sul mercato secondario corporate bond di qualità un po' più alta, adesso comprano la Fed anche titoli come i Fallen Angel famosi, titoli con rating più basso, quindi con diritti un pochino più bassi, sia direttamente che tramite anche fondi. Quindi è una modalità un pochino diversa per diversificare. La banca centrale che sa cosa sono i rischi cerca di diversificare, quindi anziché comprare un certo numero di emissioni ne compra tantissime un'altra volta tramite un fondo. Deborah. Sì, volevo fare così un po' una piccola esplorazione con Manuel Pozzi a livello settoriale, per capire effettivamente su che cosa gli investitori professionali ragionevolmente punteranno prossimamente e da quali settori invece continueranno almeno per un po' a tenersi alla larga, perché sono sempre così considerazioni interessanti. Oltre a fare l'esplorazione di carattere geografico, anche quella settoriale è sempre molto interessante, considerando che questa crisi, lo abbiamo detto più volte regalando questa immagine ai nostri ascoltatori, ha messo letteralmente in ginocchio alcuni comparti che immaginiamo che come ambito di investimento adesso non siano particolarmente appetitosi: il turismo, le compagnie aeree che si stanno un po' riprendendo, ma insomma chissà quando si ritornerà a viaggiare, ad esplorare, visto che stiamo utilizzando questo verbo, il mondo, quindi questo lo dico. Le telecomunicazioni, anche se questa mattina anche la mia ha fatto un po' le bizze da casa, Pozzi, quindi le stiamo sovraccaricando, ma forse proprio per questo sarà il caso di continuare ad investire nelle infrastrutture tecnologiche, le telecomunicazioni, la possibilità di comunicare a distanza. Ecco, voi come state componendo da questo punto di vista il vostro portafoglio di investimento? Allora, direi che infrastrutture tecnologiche, quindi le aziende che gestiscono per esempio i dati per la voce e soprattutto per internet, come quelli che stiamo utilizzando in Italia, Inmit, in America, American Tower, per citare due nomi, piuttosto che quelle che gestiscono grandi data center, qui ce ne sono soprattutto tante aziende in Nord America che lo fanno a livello globale, sono i pagamenti elettronici, sono tre generi di infrastrutture legate un po' all'elettronica e all'informatica importantissime, che mantengono anche dei buoni livelli di fatturato anche in questo periodo e pensiamo continuare a fare molto bene. La sanità è un settore che sta tenendo abbastanza bene, ovviamente un po' per la speranza che alcune aziende farmaceutiche possono effettivamente arrivare a trovare questo vaccino, dei vaccini o comunque farmaci idonei a trattare in maniera efficace il coronavirus, ma in generale c'è anche un sentimento, un modo di percepire il settore farmaceutico più benigno rispetto per esempio a 1, 2, 3 anni fa, quando c'era una vista un pochino più così di vieco da molte delle persone. Poi altri settori che stanno venendo vincitori sono dei catene di alimentari, perché tutti questi stanno andando sui mercati o direttamente o indirettamente, e quindi questo è un settore che sta risultando vincitore. Il packaging, quindi le aziende che fanno un po' tutti i servizi che servono poi indirettamente per la logistica, per il trasporto dei prodotti. Questo è un altro settore, gli incartamenti, per intendersi. E poi anche, direi, probabilmente, le energie alternative, quindi tutto ciò che il mondo è legato all'eolico, al solare e così via. Un po' perché ci saranno sempre più investimenti in questo senso e anche i piani di sviluppo economico dell'Unione Europea vanno in questo senso, per esempio. Un po' perché il costo di produzione dell'energia elettrica tramite questi canali è diminuito in maniera drammatica in questi anni. Sì. Pozzi, noi però le dobbiamo anche regalare un telefono nuovo. Sì, anche la sua voce, la sua emissione vocale sta diminuendo in maniera drammatica. Allora, io la saluto, la ringrazio perché siamo in chiusura, ringraziamo Manuel Pozzi e sentiamo Antonello se ha la risposta esatta. Ci ha chiamato da Genova per il domandone: tasso annuo definitivo del BTP Italia pari a, Antonello? 1.40%, buongiorno. Buongiorno a lei, buona giornata e complimenti per la risposta esatta. Grazie, grazie ancora a Manuel Pozzi, grazie a Valeria Bernardi in regia, bene, Luca Cremonese all'assistenza, come sempre Mauro, grazie a Marco Lombardo. La super anticipazione su domani, perché lo sai che domani avremo il botto al centralino. Domani parliamo del super bonus al 110%, prenotatevi 349-238-6666 o anche 2 di denari @radio24.it. A domani.